Venezia 75. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Piero Di Domenico. È il giorno ufficiale dell'inaugurazione della 75esima mostra del cinema di Venezia e allora continuiamo a farci raccontare questa edizione dal nostro esperto di cinema Piero Di Domenico. Ciao Piero. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori. È il primo giorno, il giorno di apertura di Venezia 75 con First Man di Damien Chazelle che questa sera inaugura questa edizione di una mostra straordinariamente ricca, come già vi raccontavo ieri, di proposte, di formati, di produzioni, quindi davvero è una mostra che quest'anno si presenta con una serie di frecce al suo arco che francamente insomma mi sembra decisamente superiore anche rispetto agli anni passati e fra l'altro finalmente con una dimensione concorrenziale riguardo alle proposte anche al Festival di Cannes. Naturalmente poi ovviamente questo non riesce a, come dire, a coprire l'estemporaneità di una mostra che appunto nasce e vede le sue strutture appunto nascere repentinamente in pochi giorni e poi pochi giorni dopo la fine della mostra che sarà, ricordo, l'8 settembre altrettanto repentinamente tramontare, ma naturalmente questo come dire, questa vocazione, questa venatura effimera che è esattamente opposta invece a Cannes, che riesce a lavorare tutto l'anno anche con altre manifestazioni ospitate appunto nelle strutture della mostra del cinema, questo resta come dire un tratto distintivo di Venezia, forse insomma un po' anche motivo del suo fascino. Ma invece dal punto di vista di quello che c'è dentro questa mostra, davvero appunto si può trovare moltissimo, a cominciare ovviamente dal film di stasera che ripercorre la vicenda di Neil Armstrong, il primo astronauta americano, il primo uomo al mondo che mise piede sulla Luna, interpretato da Ryan Gosling, atteso uno degli attori più importanti della sua generazione negli Stati Uniti, e naturalmente è una vicenda che servirà anche per come dire rievocare e ricordare anche ai più giovani che non hanno visto appunto lo sbarco sulla Luna quella che fu che è stata una avventura, un'epopea epica davvero straordinaria che non a caso ogni tanto qualcuno prova anche a riproporre come dire con una sorta di aggiornamento 2.0. First Man naturalmente è appunto il primo però di una lunga serie di film nel programma che appunto è decisamente ricco, portando anche rispetto ai nomi che già citavo ieri altri registi anche con produzioni magari più diverse rispetto al solito, penso al messicano Alfonso Cuarón che presenterà Roma, un film che racconta in qualche modo un po' la sua storia personale, ma ci saranno anche, ci sono molti film che tornano sulla storia, ad esempio 22 July di Paul Greengrass sull'attacco terroristico del 2011 quando morirono 77 persone, Peterlo di Mike League che è una storia anche questa di un massacro nell'Ottocento in cui la polizia attaccò un comizio pacifico a Manchester di lavoratori, quindi non c'è dubbio che Venezia sia quest'anno estremamente concentrata sul passato e sul presente, ma comunque sulle trasformazioni che ci sono state e che potrebbero e che dovrebbero dirci qualcosa anche per quanto riguarda il presente. Ma naturalmente oltre alle sezioni che appunto sono il sale di questa mostra. Oltre alle star ce ne sono molte attese proprio per questa produzione americana così importante. Non c'è dubbio che però a Venezia si possano trovare anche elementi che ad esempio non so quanto faranno contento il ministro Salvini, come la sezione Migrarti di cui parleremo fra un attimo. This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich. Cosmonaut, the first to open the door into the unknown, the first to step over the threshold of our homeland. The whole planet knew him and loved him. Gagarin. Was it hazardous? Yes, it was. The first strides into the unknown were about to be made. The hero who blazed the trail to the stars. One of us was with Yuri Gagarin as he orbited the Earth 190 miles above us. Astronaut to Earth. I can see forests, rivers, cumulus clouds all around. Everything's so beautiful. It's wonderful. It's wonderful. Ancora dal Lido di Venezia, dicevo appunto che tra le pieghe della mostra del cinema, delle sue sezioni centrali, fondamentali, ci sono poi anche tanti rivoli altrettanto importanti e significativi. Ad esempio questo premio, premio Migrarti che è sostenuto dal MIBACT, dal Ministero dei Beni Culturali, che si tratta di una serie di cortometraggi. Già l'anno scorso era stata avviata questa iniziativa, che appunto verranno mostrati a Venezia il 2 e il 3 settembre, e dove fra l'altro c'è una densissima presenza emiliano-romagnola, perché sia tra, come produzione che come, come autori, perché appunto ne parleremo naturalmente poi con maggiori dettagli, ma tra i selezionati figurano Il Mondiale in Piazza di Vito Palmieri, prodotto dalla Bolognese Arti Culture, La Follia degli Altri del bolognese Francesco Merini, anche qui produzione bolognese Mammut Film, La Felicità è Blu di Enza Negroni, anche qui una regista bolognese con la produzione Valeria Consolo, Dem di Capri, che è andato e ritorno di Maria Martinelli, della Camera Film di Stefano Mordini, del romagnolo Mordini, quindi una presenza molto importante e significativa della nostra regione, appunto in una sezione che non so appunto quanto farà felice il ministro dell'interno Salvini, che è annunciato domani in visita salvo controordini. Per quanto riguarda invece le altre sezioni, un'occhiata molto, molto velocemente, ma si può notare che appunto Venezia l'Italia non ha i limiti, ad esempio, che ha la legislazione francese per quanto riguarda l'uscita, la proposta di prodotti cinematografici, di film o di serie che ad esempio c'è in Francia, motivo per cui quest'anno Cannes ha chiuso le porte a Netflix, ad Amazon e quindi a tutti i nuovi produttori di contenuti audiovisivi, e invece Venezia le porte le ha tenute aperte con appunto il film di Cuaron, Roma, con 22 July, con il film di Colin, The Ballad of Buster Scruggs, sono tutte e tre produzioni Netflix, così come Sulla mia pelle, che è appunto il film incentrato sulla storia sulla vicenda di Stefano Cucchi, quindi il fatto che l'Italia non abbia una legislazione così rigida come la Francia sulle uscite, prima nelle sale e poi ovviamente in piattaforme on demand, che ovviamente insomma da un punto di vista della regolamentazione generale può essere considerato un problema, perché comunque è un settore che in qualche modo va affrontato e va regolamentato, ma in questo caso si è rivelato appunto un elemento estremamente positivo, perché appunto consente di avere tra gli attori di questa mostra anche appunto dei protagonisti che invece altri grandi festival come Cannes hanno deciso di tenere fuori. Dicevo appunto che tra i film appunto fuori concorso ci sono ad esempio Amos Gitai con A Letter to a Friend in Gaza, che ovviamente ritorna sulla questione palestinese, il documentario di Emir Kusturica, Il Pepe, Una vita suprema, il film di Tsai Ming Liang, Nidelian Your Face, o un altro documentario di un grande maestro come Frederick Wiseman, come Monrovia Indiana, ma ad esempio verrà riproposto anche nella sua versione lunga estesa The Tree of Life di Terence Malik, questo per dire quanto anche da un punto di vista dei formati e anche quindi da un punto di vista delle forme stilistiche variegate, insomma, che non è quindi solo legato a diversi produttori, quanto anche su questo Venezia quest'anno prometta moltissimo, e oggi intanto si comincia appunto con il primo passo, e il primo passo è quello che ci riporta a quello di Neil Armstrong sulla Luna. Venezia 75, la mostra del cinema di Venezia raccontata da Piero Di Domenico.